La campagna ha l'obiettivo di chiedere alle istituzioni, partendo dai comuni, due cose fondamentalmente. La prima è quella di rendere aperti e accessibili i dati che permettono di misurare il divario di genere, perché molto spesso i dati non sono tutti disaggregati per genere, quindi indicando uomini e donne rispetto a tematiche che possono andare dalla mobilità alla demografia, però non sempre i dati sono disaggregati in questo modo. E il secondo obiettivo è quello di chiedere la valutazione di impatto di genere preventiva, quindi in fase di programmazione delle politiche e delle azioni da condurre, e per poter far questo i dati sono fondamentali, per questo le due cose sono collegate. Finora in Italia la valutazione di impatto di genere non viene fatta, per questo è così, nonostante sia una metodologia che già a livello europeo viene svolta da altri paesi e che viene richiesta dall'Unione Europea. Quindi abbiamo ritenuto urgente, abbiamo sentito la necessità di darci da fare in prima persona per chiedere dal basso questo cambiamento, che diventa ancora più importante visto che aspettiamo che arrivi i fondi del Next Generation o Recovery Plan, come spesso viene chiamato in Italia. Cosa consiste questa valutazione, questo strumento? Perché comunque il Comune di Bologna ha altri strumenti simili, ad esempio come il bilancio di genere. Quali sono le differenze? Allora, il bilancio di genere è un bilancio e quindi viene fatto, diciamo, alla fine di un anno. Quindi al termine di un anno, l'anno successivo, così come si fa il bilancio economico di esercizio, viene fatto il bilancio di genere e si dice quali sono stati i dati e i tratti, diciamo, significativi dell'azione dell'ente sulle tematiche di genere. Invece la valutazione di impatto di genere richiede di fare all'inizio proprio del ciclo di programmazione, chiedersi per ogni atto, impatto o azione che si vuole fare, quale sarà l'impatto sugli uomini o sulle donne. Quindi chiedersi se la misura o l'azione che si sta per prendere avrà delle differenze, quindi chiedersi è neutrale, quindi non avrà differenze fra uomini e donne, oppure avrà un impatto positivo per ridurle, o addirittura un impatto negativo e quindi bisogna eventualmente cambiare la misura o modificarla per evitare che abbia questo impatto negativo. Faccio un esempio pratico: se i dati ci dicono, come infatti ci dicono, che ad esempio i trasporti pubblici sono più usati dalle donne rispetto agli uomini, potenziare il sistema dei trasporti vuol dire anche facilitare il movimento negli spostamenti delle donne, per esempio, un'azione indiretta. Per questo il collegamento, analisi dei dati disaggregati per genere e impatto di genere, quindi andare a analizzare che impatto hanno le azioni politiche, ci permette poi di determinare che cosa stiamo facendo per effettivamente raggiungere una reale equità di genere, se stiamo combattendo le disuguaglianze esistenti. Questo è un po' l'obiettivo, perché finora non viene mai fatto questo, cioè si fanno delle azioni politiche come se fossero neutre, non c'è questo tipo di valutazione in maniera anticipata, cioè prima, quando si stanno ancora programmando, e questo cambierebbe in maniera molto forte il modo di fare proprio amministrazione in Italia. Poi noi, il nostro augurio e auspicio è che questo non solo lo riprendano altri comuni, ma che poi ci sia un effetto domino, che anche le regioni e il governo nazionale finalmente segua su questo, perché in realtà sarebbero anni che questo tipo di metodologia è attesa, ecco, ce l'attendiamo. Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda, quindi insomma voi esprimete ovviamente soddisfazione per l'adesione del Comune di Bologna, potrebbe fungere da esempio per altri territori e anche magari livelli amministrativi più alti del Comune? Sì, è il nostro auspicio, diciamo, è il nostro obiettivo politico. Adesso abbiamo anche iniziato delle interlocuzioni con altri comuni della regione e quindi ci auguriamo che al più presto altri comuni regionali seguano, in modo tale che possiamo insieme anche con altri territori passare, diciamo, al livello superiore che è la regione Emilia Romagna. Questo è il nostro auspicio, ma anche proseguiamo lo scambio con altri comuni in altre regioni d'Italia, perché se ci fosse fermento un po' generalizzato da questo punto di vista, speriamo e ci auguriamo che possa innescare anche in maniera più rapida un'azione da parte del governo nazionale.